potrebbe migliorare in qualche modo la situazione. E certo, basta farci conoscere. In che modo? Ma noi andiamo a fare i mercatini, per esempio. I mercatini anche di Natale, così. Vengono, comprano la roba che vendiamo noi, poi si è fatto Bucaneve, capito? Non è una certa cosa, oh, tu lavori per Bucaneve? No, io non lavoro per Bucaneve, mi piace andare a Bucaneve per spiegarmi un po', capito? Questo è diverso che lavorare. Voi quando diventate grandi sapete già cosa dovete fare alla fine, no? Ci sono anch'io, ho preso il diploma, però non trovando lavoro sono andata in Germania a lavorare. Fai gelati. Non mi tratto di dire, penso che ci sono tutto.